capito che ti faccio squillare il telefono stanotte? Hai capito? Che le sveglio con la bagassa come tu, eh? Hai il telefono. Che stanotte ti piombo di telefonate. Vabbè, poi sei un drogato. Io i drogati non ne voglio, hai capito? Frocio. Frocio! Dalla quella bagassa, mamma tua, quella troia di tua madre. Hai capito? Quella magra sembra tua!